sensazione, adesso ho detto mettere che è all'acqua, adesso mi hai rotto. Proprio è fatto, dai. ci sentiamo dopo. Ciao ciao a tutti, salutami a Domenico, ciao.